Presenta. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 10 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che, come molti di voi sanno, il venerdì c'è anche la poco invidiabile classifica del programma. Per quello che riguarda oggi, partiamo subito dai mercati finanziari. Dopo Draghi di ieri, oggi qualche realizzo, soprattutto per quello che riguarda Milano, meno 0,60%. Poi andremo invece sul resto del listino, ma il rapporto anche tra euro e dollaro è in discesa netta. Per quello che riguarda l'euro su dollaro siamo a 1,1579, quindi continua il percorso già iniziato ieri con il rapporto di cambio sotto quota anche 1,17, poi 1,16, siamo a 1,1580. Parleremo di questo, dicevo, della borsa, anche di altri aggiornamenti oggi. Come i nostri GR24 vi hanno ricordato, non si è presentata la componente, chiamiamola così, renziana al Consiglio dei Ministri, quindi Graziano Del Rio, Mariana Boschi, Luca Lotti, Maurizio Martina non erano presenti alla riunione del Consiglio dei Ministri mentre si discuteva la nomina di Vincenzo Visco. Boschi e Del Rio perché malati, Lotti e Martina per impegni pregressi. Devo dire che questa è stata vista come invece un atto politico. È arrivato poi invece un buon lavoro, non in bocca al lupo, da parte di Matteo Renzi al governatore della Banca d'Italia. Detto Renzi, sulla Banca d'Italia ci sono state delle opinioni diverse anche al nostro interno, io l'ho espresso in modo molto sereno e chiaro, oggi si è fatta una scelta diversa e noi auguriamo un buon lavoro al governatore nuovamente nominato. Per noi la discussione è terminata con le modalità previste dalle istituzioni. Poi ha aggiunto Renzi da Catania, ciascuno rimane con le proprie idee, ma il fatto che si possa essere di opinioni diverse non cambia nulla al desiderio di lavorare insieme per il futuro del paese. Io sono uno di quelli che non le manda a dire, e ne parleremo nella seconda ora del programma, perché torna a grande richiesta, anche se non è che il programma diventi una grande richiesta di ospiti, però torna l'uccellaccio alle 18:10 per parlare sì della Banca d'Italia, di quello che è successo e di come anche si è sviluppata e conclusa la vicenda, ma anche per parlare in generale, visto che la campagna elettorale non dico che sia ufficialmente iniziata perché non abbiamo ancora la data dello scioglimento delle Camere né delle elezioni, ma è formalmente iniziata e adesso c'è il primo test delle elezioni siciliane, per capire quanto poi tutto il tema bancario diventerà, a mio avviso, un oggetto caldissimo di scontro elettorale. Anche di questo parleremo. Nel frattempo, per quello che riguarda il numero per i vostri sms, resta 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Male, lo dico a chi mi sta scrivendo, anche la Borsa di Madrid per la vicenda catalana, il via libera del Parlamento, l'autonomia. Abbiamo fatto anche la breaking news ed è presente in tutti i GR 24. Devo dire che alcuni titoli si avvantaggiano, poi ne parleremo di questo euro più debole nei confronti del dollaro, le banche complessivamente in calo dopo la BCE di ieri, sono usciti i dati del terzo trimestre dell'ENI, l'utile da 344 milioni, conti solidi ma forse un po' di delusione negli investitori. Nei primi nove mesi dell'anno comunque Eni ha segnato un utile a 1 miliardo e 327 miliardi, quello adjusted a 1 miliardo e 436 miliardi. Oggi i conti anche di Mediobanca, bene in borsa, utile trimestrale sale dell'11%, ricavi del 13%, quindi sostanzialmente a 301 milioni l'utile del primo trimestre, mentre i ricavi salgono del 13%. Parliamo anche di noi, nel senso che via libera della Consob all'aumento di capitale da 50 milioni di euro del Sole 24 Ore, l'autorità della borsa ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo. L'aumento di capitale per il gruppo Sole 24 Ore partirà lunedì prossimo con i diritti di opzione che potranno essere esercitati fino al 16 novembre e negoziati fino al 10 novembre. Dicevo, 349-238-6666 per sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e come sempre anche la diretta di su Facebook. Andiamo rapidamente con le notizie in breve. Allora, restando sulla borsa, faccio notare che oggi, con i chiedi migliori e peggiori, oggi va molto bene, molto bene in vista la giornata, Luxottica più 2,77, A2A più 2%, Mediobanca più 1,70, Tenaris più 1,60, Ferrari più 1,5, come Italgas, Mediaset più 1,20%, parlo sempre del listino principale. Per quello che riguarda invece da questo punto di vista anche i titoli che perdono di più, abbiamo un Banco BPM meno 3,23%, Bibanca meno 3%. Le altre notizie in breve, dicevamo, petrolio oggi in leggero rialzo a dell'1% a $53 al barile. Ancora, per quello che riguarda il Brent, invece vicino ai massimi da due anni dopo l'annuncio dell'Arabia Saudita di un prolungamento dei tagli dell'OPEC, vicino ai $60 al barile. Bene il dato sul PIL americano nel terzo trimestre, più 3% sopra le attese. Cresce nonostante l'effetto degli uragani. Vola invece a Wall Street il titolo Amazon, più 8,6%. Jeff Bezos sta insidiando, diciamo così, a Bill Gates il titolo di uomo più ricco del mondo. Il balzo dei titoli di Amazon infatti consente a Bezos di arricchirsi di $6,6 miliardi con un totale, per un totale di $90 miliardi. Per quello che riguarda, voi volete sapere se ci sono altre reazioni dei mercati sulla Catalogna? No, è molto nervosa, come è immaginabile, è negativa la borsa di Madrid. Devo dire che il premier Rajoy ha reagito al voto del Parlamento catalano chiedendo su Twitter tranquillità a tutti gli spagnoli, lo Stato di diritto restaurerà la legalità in Catalogna. Per l'Unione Europea non cambia nulla, ha scritto sempre su Twitter il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, la Spagna resta il nostro unico interlocutore. Veniamo all'Italia, bene l'asta dei bot semestrali per 6 miliardi di euro, assegnati tutti i titoli, quindi il massimo dell'importo prefissato, e di nuovo in calo i rendimenti, nel senso che sono un nuovo minimo storico, ossia per prestare soldi all'Italia, grazie chiaramente allo scudo del quantitative easing delle banche centrali europee, dicevo, per prestare soldi all'Italia si è disposti anche a perdere il valore nominale, meno 0,4% il rendimento, che è appunto un minimo storico, il precedente era meno 0,38%, e la domanda è stata sostenuta quasi due volte, quasi 12 miliardi, quindi quasi due volte l'offerta. Sempre in Italia, 4 giovani giovani disoccupati, chiaramente, su 10, soprattutto laureati, sarebbero disponibili a trasferirsi per motivi di lavoro e quindi a cambiare la residenza. Guardando la statistica da un altro punto di vista, invece, il dato dell'Istat, 3 giovani su 5 non sarebbero disposti a trovare casa, a cambiare casa per trovare lavoro. A parità di istruzione e maggiore disponibilità a traslocare anche all'estero, si riscontrano in giovani provenienti da ambienti familiari culturalmente più elevati. Questo devo dire che non è oggettivamente una novità, e l'Istat fa sempre sapere che in tema di lavoro un giovane su 4 lavora o a termine o a part time, un laureato su 2 ha un'occupazione atipica. La quota di lavoratori atipici infatti è del 51% per i laureati, del 64% per i diplomati. 4 giovani occupati su 10, 40% ha trovato lavoro con la segnalazione di parenti, amici o conoscenti. Tra i laureati però cresce molto la possibilità di trovare lavoro attraverso altri canali. E poi, sempre in tema di lavoro, questa volta di welfare aziendale, oggi presentata a Milano la 4ª rilevazione del MOL, che è il monitor sul lavoro. Il welfare aziendale era al centro dell'indagine, che ha coinvolto un campione di 1000 lavoratori dipendenti, con rappresentativi per genere, età, area di residenza e titolo di studio. Ha coinvolto circa 100 imprenditori fra i componenti degli organismi di Federmeccanica, e i primi risultati li ha illustrati Daniele Marini, direttore scientifico di CMR Community Media Research, al microfono del nostro Adriano Palazzolo. C'è già oggi una buona diffusione dell'iniziativa di welfare nelle imprese, dal punto di vista dei lavoratori. Poco più della metà delle imprese, secondo i lavoratori, ha iniziative di welfare, in particolare nel settore della metalmeccanica, e soprattutto le presenze di queste iniziative è in proporzione alla grandezza delle imprese, quindi quanto sono più grandi tanto più hanno iniziative di welfare. Un secondo elemento è che c'è una netta connessione fra presenza di iniziative di welfare e soddisfazione dei lavoratori, e dal punto di vista delle condizioni percepite e dal punto di vista del clima aziendale, ma anche della identificazione con l'impresa. Questo per dire che cosa? Che laddove si attuano questo tipo di attività aumenta anche il grado di identificazione e di benessere generale da parte degli stessi lavoratori. Chi ha iniziative di welfare tutto sommato ritiene e vede che la possibilità di usufruirne è positiva, cioè non ci sono problemi di carattere burocratico eccetera eccetera, e quindi sono facilmente fruibili. C'è però una parte di lavoratori che invece segnala che ci sono ancora delle difficoltà. Soprattutto c'è questo aspetto fondamentale, che sono ancora pochi i lavoratori che conoscono la positività dei sistemi di welfare, cioè poco meno della metà dei lavoratori sa che le iniziative di welfare non sono tassate come un eventuale aumento del salario, e quindi questo in qualche modo frena ancora la possibilità e il fatto che questi lavoratori richiedano questo tipo di iniziative. E poi l'importanza del welfare aziendale è stata sottolineata anche dal presidente Federmeccanica Alberto Dal Pozzo, sempre al microfono del nostro Adriano Palazzolo. Siamo assolutamente convinti che il welfare sia uno strumento estremamente potente, estremamente versatile, e che ritengo sia stato uno dei fattori scatenanti di un grande interesse intorno alla nuova contrattazione metalmeccanica avviata nella fine del 2016. Avere uno strumento importante, potente, se vogliamo dire, con delle potenzialità ancora da esprimersi in questi anni, è utile, e sarà senza dubbio compito di Federmeccanica seguirne l'applicazione, l'implementazione in modo molto efficace. Dobbiamo però essere assolutamente consapevoli del fatto che avere uno strumento così interessante da gestire darà soddisfazione a tutti solo se sarà applicato in termini massivi dalle aziende e apprezzato in termini altrettanto massivi da parte dei lavoratori. La classifica della settimana. Eccoci qua di nuovo. Allora, abbiamo raccontato la vicenda la scorsa settimana di che cosa è successo a chi denunciò dentro Ferrovie Nord l'ex presidente Achille, che è stato condannato, Norberto Achille, ha detto sono colpevole, provo vergogna, mi riferisco agli scandali sulle Ferrovie Nord. Perché cito questo caso? Perché ci spostiamo e andiamo subito al quinto posto, in tutt'altra realtà, però dinamiche, non dico simili, ma ci vanno molto vicino. Allora, c'è un ricercatore che ha dovuto scrivere al ministro dell'istruzione all'Università Valeria Fedeli per raccontare la sua storia, che ha dell'allucinante. Attenzione, qui non c'è solo il danno economico in senso stretto, c'è proprio anche uno spaccato della mentalità di alcune università italiane. Faccio notare che c'è anche abbastanza una corrispondenza tra certi atteggiamenti baronali, per essere buoni, e la qualità della docenza universitaria. E difficilmente, se tu fai passare amici, segretari, figli di amici, e qui mi fermo perché non voglio andare verso la querela, già voglio dire, c'è chi ci pensa a farcela, è ovvio che la qualità della docenza forse ne risente. Perché lo dico? Perché nel dicembre 2011 Giambattista Scirè vince un concorso da ricercatore a tempo determinato all'Università di Catania. Che cosa doveva fare? Ricerca, ma soprattutto insegnare. Doveva insegnare nella sede di Ragusa lingue e letterature straniere, nella sede della facoltà di lingue e letterature straniere di Ragusa, la cattedra, aveva preso la cattedra di storia contemporanea. Ora, io vi chiedo, ma se tu devi avere una cattedra di storia contemporanea, quali titoli serviranno per insegnare storia contemporanea? No, la domanda dice, è impazzito? No, non sono impazzito, perché in realtà il concorso, sapete chi l'ha vinto inizialmente? Un'architetta. Allora, non aveva né titoli né compatibilità scientifica, è entrata. Tant'è che il TAR della Sicilia dà ragione a Scirè, quel concorso era bugiardo, la commissione giudicante ha voluto imporre l'altra candidata, scrive il TAR. Gran parte dei titoli presentati dalla vincitrice e positivamente valutati dalla commissione erano in realtà incongruenti col settore concorsuale. La signora, l'architetta, aveva detto di essere esperta in storia contemporanea, invece era storia dell'architettura, c'è una leggerissima differenza, o architettura del paesaggio, che anche qui con la storia contemporanea c'entra poco. Cioè, voglio dire, Le Corbusier, per carità, fa parte in senso molto lato della storia, ma il biennio russo o il biennio rosso, come dice qualcuno, non lo vai a studiare quando fai storia dell'architettura. Andiamo avanti. Perché si è espresso poi anche il Consiglio di Stato con sede a Palermo, che in Sicilia, che è sempre nomi diversi, si chiama Consiglio della Giustizia Amministrativa. Quindi Scirè ha avuto ragione in forma definitiva. Bene, in un paese normale dice ok, già avete fatto una figura di palta a far passare una ricercatrice come ricercatrice e dare la cattedra a una che era laureata in architettura e nulla sapeva di storia contemporanea, al di là delle sue letture private. L'Università di Catania, dopo 6 anni e 3 rettori, non è ancora riuscita ad assegnare il posto al ricercatore di Ragusa. L'Ateneo costretto ha aperto la porta dell'aula nel settembre 2014 per 4 mesi di contratto per sostituire l'architetta abusiva nel ruolo, sospesa. Sapete quanto ci ha messo l'Università di Catania a sospendere un'architetta che ha vinto 2 anni e mezzo? E la beffa è anche che, siccome l'hanno sospesa, finalmente chiedono a quello che doveva prendere il suo posto regolarmente e che aveva i titoli di fare 4 mesi come di supplenza. Esigenze didattiche, diceva il mini contratto, poi di nuovo fuori, quindi gli studenti senza lezione nei 4 mesi successivi. Scirè è uno storico, ormai ha 42 anni, perché il concorso appunto è 2011 e ne sono passati 6, lo vinse a 36 anni, è tornato a Ragusa per la sua battaglia, non sta lavorando, c'è un'ultima sentenza della magistratura amministrativa dello scorso 25 agosto che ha sancito di nuovo come l'università non solo il concorso non fosse valido, ma non ha ottemperato ad accogliere Scirè. È stata elusiva e omissiva, l'Ateneo doveva affidargli il corso, tuttora in vita perché esiste questo corso, per l'intero triennio, ma si è limitata a un risarcimento parziale, 45.000 euro, metà dei quali le ha spese in avvocati Scirè. Per cui il TAR quindi ha detto che annuncerà, se il rettore non interviene entro il prossimo 23 novembre, annuncia la nomina di un commissario ad acta. Allora, voi direte, perché anch'io mi sono posto questa domanda, ma perché un'intera università, i rettori, devono essere così reticenti 2 anni e mezzo per mandare via l'architetto e non hanno 4 mesi invece che il reintegro del ricercatore che ha vinto il ricorso a tutti i livelli, e con, appunto, mi sembra abbastanza inequivocabile, perché tutta questa reticenza? Perché tutta questa reticenza? Allora, viene fuori una cosa interessante che tra l'altro su questo si è aperto anche un processo penale, lo porta avanti la Procura di Catania, 3 membri della commissione sono stati rinviati a giudizio per abuso di ufficio. Tra l'altro agli atti ci sono 2 mail di 2 docenti universitari portati in procura dal querelante, sono del 2012, i giorni del concorso, rilevano che il risultato della prova era già stato deciso. Un professore interno parla esplicitamente di gran porcheria e chiede di passare a un altro dipartimento. Il secondo professore dell'Università di Palermo presenta a quel concorso un allievo e scrive alla commissione: è un allievo resistente a ogni pressione esterna. Ma che cavolo di caratteristica è? Solo in Italia e delle volte solo in Sicilia si può scrivere di un allievo come caratteristica: è resistente a ogni pressione esterna. Lo metteremo nel curriculum. Resistente a ogni pressione esterna, mi immagino non di carattere fisico, non se ti schiaccia una betoniera o se finisci nel cemento, ma diciamo resistente evidentemente al fatto di non presentarsi, cosa che è già avvenuta, l'abbiamo raccontato altri casi. Ma la domanda è: ma perché questa architetta viene scelta al posto dello storico con un errore macchiano che capisce anche un bambino di quarta elementare? Non lo so, c'è un'ipotesi, però visto che c'è qualche università che ce l'ha con noi per alcune classifiche, resto sull'ipotesi. Forse perché era stata la segretaria del potentissimo ex prese di facoltà? Restiamo con questo dubbio, vi prego. Restiamo con questo dubbio perché il dubbio è legittimo. Andiamo sul metro della pubblicità e poi rapidamente al quarto, terzo, secondo e primo posto. La natura di prima mano vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. minuti, andiamo al quarto posto e qui inizia, ma stiamo ripercorrendo, lo dico che mi scrive sempre col sud, ce l'avete ancora, le due premesse sono sempre le solite: A, ci occupiamo di soldi pubblici; B, sappiamo che molti enti pubblici lavorano benissimo, ci occupiamo delle mele marce, sperando che diciamo le mele marce non siano in alcuni casi la maggioranza del cesto delle mele; C, sono 3, quindi quello che troviamo raccontiamo, non è colpa mia se anche questa settimana ci sarà una regione che spesso diciamo spopola nella classifica. Ma andiamo al quarto posto, anche qui una vecchia conoscenza, l'ATAC. Allora, il presidente all'ATAC è la municipalizzata di Roma, la più grande municipalizzata d'Europa quanto a debito, vabbè, non è che posso ogni volta ripetere la storia dell'ATAC perché facciamo notte. Il presidente e amministratore delegato e direttore generale Paolo Simioni ha presentato un nuovo piano industriale ai sindacati. Le linee guida prevedono un aumento della produzione da 36 a 39 ore settimanali per i conducenti e 300 minuti effettivi al giorno per i macchinisti. Abbiamo raccontato molte volte come i conducenti dell'ATAC di Roma lavorino molto meno quanto ore lavorate di quelli di Milano, ma anche di quelli di Napoli. C'era tutto il caso di quando inizia il turno, è che è chiaro che se il turno inizia nel posto più distante da cui rispetto all'autorimessa, è ovvio che le ore effettive lavorate di guida si riducono, ma non è su questo che voglio concentrarmi. Simioni ha detto appunto vuole portare i conducenti a 300 minuti effettivi al giorno per i macchinisti della metro, e poi l'aiuto richiesto al governo per acquistare 800 nuovi bus e 30 treni in 3 anni. Facciamo notare a Simioni che sarebbe necessaria anche una stretta, un giro di vite sui tornelli, cioè quelli che permettono di capire quando uno entra, esce e quando timbra il badge. Perché? Perché il mitico Rettighieri, io non ho motivo per pensare che Simioni valga meno, ma sappiamo che Rettighieri quando arrivò fece ridurre di un decimo i furti nei magazzini mettendo le telecamere, fece ridurre di un decimo il costo dei pneumatici perché si scoprì che c'era un dipendente, la ditta che li forniva era della moglie di un dipendente, cose dell'altro mondo. Comunque fu mandato via. Allora, che cosa, perché cito Lettighieri? Perché l'inchiesta che lui fece sull'assenteismo, beh, aveva fatto scoprire di tutto. Allora, moduli per la richiesta di badge sostitutivi usati con disinvoltura, con la scusa di aver dimenticato tessino aziendale a casa e senza visto per autorizzazione dei responsabili, un responsabile di sicurezza pizzicato sistematicamente lontano dalla rimessa di Tor Pagnotta con permessi non autorizzati. Che cosa è successo? Allora, praticamente nelle sedi periferiche mancano i tornelli, cioè, adesso io voglio dire, ma in quale azienda, non so, del mondo, dell'emisfero nord, ma anche dell'emisfero sud, a maggior ragione se tu sai di avere un problema di assenteismo, ma in generale non esistono i tornelli, un po' anche per motivi di sicurezza, un po' perché il badge certifica quando sei entrato e quando sei uscito. Niente, ci sono ancora all'ATAC uffici, sedi periferiche dove mancano i tornelli, quindi gli ingressi e le uscite sono liberi. Addirittura le relazioni acquisite dalla Guardia di Finanza nel quadriennio 2013-2016 contengono, oltre a decine di moduli precompilati ad hoc per assentarsi dal posto di lavoro, anche un discreto numero di falsi storici. Cioè, il modulo precompilato mi dà un modulo per assentarmi dal posto di lavoro, grazie? Solo all'ATAC che la potevi sentire questa cosa. Allora, durante le ispezioni a campione nelle rimesse di Grotta Rossa, Magliana, Portonaccio e Tor Pagnotta sono addirittura spuntati fogli. Cioè, posso fare spuntati fogli per registrare le presenze. Non li avevano neanche aggiornati, recavano ancora il marchio Trambus. L'azienda non c'è più dal 2010, se l'è assorbita l'ATAC. Ma almeno se devi falsificare la presenza, era come se uno usasse ancora la bolletta della SIP, non so come dire, no, dove lavori? La SIP, ma lo sappiamo solo noi e chi ha più di 40 anni che cos'era la SIP. Niente, tanto poco gliene fregava, che manco cambiavano il modulo da falsificare, capito? Usavano la vecchia dicitura Trambus, no? E a quando la RAI come EIAR, chiedo io a questo punto, va? Allora, lo stratagemma, che il capo di questo era un coordinatore di esercizio di Grotta Rossa, ma lo facevano molti altri, c'erano due modi sostanzialmente per truffare l'azienda. Primo, uno diceva, giustificava l'omessa timbratura in uscita con un guasto del lettore. Sempre in uscita il guasto, va in entrata, interessante. Poi lo stesso giorno uno, dopo aver scritto non ho timbrato per guasto del lettore, predispone una richiesta per straordinario pagamento. Ovviamente la richiesta è autocertificata e viene registrata nel sistema di gestione delle presenze, un software incredibile, è un software che non contempla la possibilità che un'autocertificazione vada un attimo controllata meglio, e quindi è un software tra l'altro incapace di distinguere la rimessa in cui di volta in volta è stato timbrato il cartellino. Ma ragazzi, cioè, come si fa? Quindi la falla permetteva ai più disonesti di strisciare a piacimento, magari due passi da casa, tanto lui non distingueva se tu strisciavi a Grotta Rossa, a Magliana, a Portonaccio, a Tor Pagnotta, sempre una strisciata era. Ma che la tiene a fare la strisciata a sto punto? Quindi magari due passi da casa per poi raggiungere il vero posto di lavoro con tutta calma, e tu risultavi, mentre raggiungevi il posto di lavoro, risultavi al lavoro. Quindi il doppio reato è truffa e danno erariale. Mettetelo, dico Simioni, i tornelli dappertutto, anche a Grotta Rossa, Magliana, Portonaccio e Tor Pagnotta. Andiamo al terzo posto, risaliamo, no, non risaliamo, no, ma insomma siamo sempre nel centro-sud, perché qui il danno erariale è comunque anche interessante per il comune di Napoli, 160, per la regione Campania, 160.000 euro all'anno di costi. Perché? Perché praticamente in regione sono diventati dipendenti pubblici di categoria D, quella sotto i manager, e quindi costano 160.000 euro in più rispetto ai loro colleghi all'anno, persone che non avrebbero i titoli per essere lì, cioè hanno solo il diploma e non la laurea. È arrivato il nucleo di polizia tributaria in un'indagine condotta dalla Corte dei Conti della Campania, e quindi, che ha fondato le radici anche in questo modo di operare. Devo dire che la responsabilità, il periodo è riferito a quando era Antonio Bassolino, poi con la pratica si è trasferita a Stefano Caldoro ed è persiste ancora oggi con il governatore Vincenzo De Luca. Il danno erariale contestato da alcuni dirigenti del settore amministrativo e contabile della regione, che hanno ricevuto un invito a dedurre che equivale a un avviso di garanzia, sono contestati tutti i provvedimenti a due soprattutto dirigenti, Lucio Multari e Girolamo Sibilio, tutti i provvedimenti che hanno permesso un avanzamento di carriera definito illegittimo a 44 dipendenti che sono arrivati a livello quasi manageriale perché non hanno i titoli ma percepiscono stipendi da manager. Non è stato osservato il dettato normativo, si tratta di un comportamento grave e riprovevole tenuto dai due dirigenti, dice la Corte dei Conti, che si sono macchiati di una grave ed inescusabile leggerezza. In maniera avventata e superficiale hanno deciso che per la selezione senza non ci dovesse essere la propedeutica attività di interpello. Insomma, che cosa contesta? Dice che senza aver guardato nel bacino di dipendenti pubblici in cassa integrazione hai fatto e hai promosso persone che quel titolo non ce l'avevano, mentre c'erano persone in cassa integrazione che il titolo lo avevano. Sono pochi soldi, ma sono sempre 160.000 euro in più all'anno. Andiamo rapidi al secondo posto, però lo faccio dopo il traffico e poi la borsa e poi l'uccellaccio Sapelli, anzi prima la startup e poi l'uccellaccio Sapelli. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. minuti, andiamo al secondo posto e troviamo una vecchia conoscenza, lo dico anche qui col massimo rispetto perché c'è un rinvio a giudizio, poi bisognerà vedere la sentenza, e mi riferisco all'ex governatore della regione Lombardia, Roberto Formigoni, definito a suo tempo il Celeste. Allora dovrà presentarsi al processo il prossimo 15 gennaio il senatore dell'API, adesso Roberto Formigoni, accusato di corruzione e turbativa d'asta. Lui è già stato condannato in primo grado a 6 anni sull'inchiesta di appunto aver ricevuto soldi e altre prebende per la fondazione Maugeri. In realtà questa volta si tratta sempre di vacanze. Io dico, c'è chi si inguaia con le donne, e vediamo in questi giorni, e c'è chi si inguaia con le vacanze, ma se ognuno cercasse di stare un attimo più sobrio. Allora, questa volta sarebbe... Oh, il PM ha chiesto però, il 15 gennaio inizia il processo, Allora, a pagargliele questa volta sarebbe stato Massimo Guarischi, ex consigliere di Forza Italia, divenuto consulente di case farmaceutiche, dopo un primo arresto per tangenti. Bella sta cosa, Guarda che pure lì, adesso fatemi star zitto, ma... Uno viene arrestato per tangenti, diventa consulente delle aziende farmaceutiche. Vabbè, è uno skill. Mettiamolo anche questo nel curriculum. Come prima, mettiamo anche questo nel curriculum. Resistente a pressioni esterne in un caso o ha a che fare, sa come muoversi nel sottobosco. Mettiamoli nel curriculum, dai. Allora, dicevo, Guarischi in cambio avrebbe offerto a Roberto Formigoni vacanze di lusso in Sudafrica e in Croazia. In cambio Formigoni avrebbe garantito l'acquisto di macchinari oncologici milionari promossi da Guarischi. Le presunte utilità sarebbero consistite in oltre 400.000 euro tra contanti e orologi, tra cui un orologio da uomo in acciaio bulgari dal valore di 3.530 euro, spese per viaggi, il noleggio di un aereo privato per raggiungere Olbia e un elicottero per volare St. Moritz e noleggio anche di barche. Allora, a processo ci saranno anche l'ex direttore generale della sanità Carlo Lucchina e l'onorevole dell'API Paolo Alli. Per lui è rimasta infatti l'accusa di tentato abuso d'ufficio. Io ricordo benissimo quando durante lo scandalo sulla gestione Formigoni notammo, no, perché gli accertamenti lo provarono, che per anni dal conto corrente di Roberto Formigoni, cosa che può succedere, c'erano solo movimenti a avere, nessun movimento d'aggio, non usciva un euro. Guarda che è difficile, io dico, per carità, bravo, parsimonioso, ma è difficile non toccare col bancomat mai, mai il tuo conto corrente, solo i versamenti. Cioè. Vabbè. Al centro dell'indagine, in particolare, due forniture dell'apparecchiatura diagnostica acceleratore lineare vero all'ospedale di Cremona e all'istituto dei tumori. Quest'ultima non andò in porto. Lo scorso marzo la Corte d'Appello di Milano, quindi già in secondo grado, ha confermato la condanna a 5 anni per Guarischi, ritenuto il presunto collettore delle mazzette. Stando all'avvio di conclusione delle indagini, l'allora governatore Formigoni avrebbe ricevuto la somma complessiva di 447.000 euro, suddivisa in un lungo elenco di utilità, appunto 7.000 euro per festeggiare il Capodanno del 2012 in Sudafrica, 12.000 euro e più altre 18.000 euro per due vacanze in barca in Croazia, il noleggio appunto di aerei privati, uno per andare in Valtellina a 8.000 euro, l'altro per andare a St. Moritz a 6.000 euro. Non ho capito come faccia costare meno quello per la Valtellina e più quello per St. Moritz, ma comunque chi se ne frega a sto punto, no? Anticipazioni pagamenti di spese da parte di Guarischi in suo favore per pranzi e cene in ristoranti. Guarischi avrebbe anche versato a Formigoni tranche in contanti da 97.000 euro, 85.000 euro, 153.000 euro e 54.000 euro, dice Formigoni. Un processo ancora più infondato del primo, su cui però è stato condannato in primo grado, e totalmente privo di qualunque riscontro. Vabbè, ma c'è andato poi in Croazia, in Valtellina, St. Moritz, in Sudafrica, e ha pagato lui? Nel senso, o anche lì ognuno metteva, come nel discorso della barca, con, ricordo, mi ricordo la linea testuale, con Maugeri, ma io quando faccio le vacanze in barca, disse Formigoni, ognuno porta le sue cose. Sì, ho capito, uno metteva la barca, l'altro portava i panini, non è la stessa cosa. Cioè, vorrei anch'io avere degli amici che ti invitano, io metto l'aereo, tu Barisoni compra, no, il segreto non si può dire, tu compra le Coca-Cola, vabbè, neanche quello si può dire, tu compra le bibite, cavolo, averne gli amici così, ti porto in Sudafrica, mi raccomando, occupati tu del taxi, ecco, già pronto. Vabbè, chiudiamo in bellezza, perché domenica prossima si vota, non dopodomani, ma domenica prossima si vota in Sicilia e avete già capito, facciamo un piccolo punto, è difficile per tutta la situazione a Sicilia, però vorrei informare gli elettori siciliani di alcune cose che magari gli sfuggono, non sfugge ai parenti e ai disabili siciliani la situazione indecente in cui versa ancora la regione per quello che riguarda gli assistenti sociali. Abbiamo raccontato di tutto, dei forestali, 80 euro in più, 15 milioni che avrebbero tranquillamente coperto le esigenze un pochino primarie di chi ha un disabile in casa e deve garantirgli la scuola e diritto allo studio, però diciamo, per farvi avvelenare il fegato ben bene, andiamo sul GR24, poi dopo il GR24 commentiamo due o tre dettagli proprio flash sulla situazione, diciamo, della regione Sicilia, il caso Virtuoso e Sapelli. Sono Nicoletta Carbone e ho una proposta da farvi. Venite con me a caccia di bufale? Allora dai, segnate in agenda La Bufala in Tavola, Radio 24, ore 12, ogni domenica con Nicoletta. Perché se è vero che siamo quello che mangiamo, non vogliamo mangiare bugie, fake news, leggende o mode, ma solo quello che ci piace, è buono e ci fa stare bene. Allora io vi aspetto, mi raccomando, a mezzogiorno, alla domenica su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. E 8 minuti, ultima parte di Focus Economia e ultima posizione in classifica. Non faccio neanche The Winner Is oggi, tanto avete già capito che è la Sicilia, ma per fare un punto su alcuni elementi. Abbiamo già raccontato che in Sicilia ci sono tanti forestali quanto in tutto il resto d'Italia, parliamo dei forestali regionali che sono il doppio di quelli canadesi, orso, yogi incluso. Andiamo avanti su questo, perché È vero che qualcosa, lo dico anche perché qualcosa si sta muovendo, perché c'è stata una riduzione nel costo complessivo del personale, nel senso che vi è stato, il personale costa, negli ultimi dati della regione, 866 milioni. Il personale sarebbe sceso da 17.057 persone a 14.838 persone. Tra l'altro, da questo punto di vista, la riduzione è stata dei redditi per lavoro dipendente, retribuzioni, oneri sociali e pensioni, di 163 milioni di euro l'anno scorso, il 10% in meno, l'11% in meno. L'anno prima era stata solo del 2%, attestandosi la spesa complessiva a 1 miliardo e 348 milioni. In particolare l'anno scorso la spesa per retribuzioni si è ridotta di 66,7 milioni, da questo punto di vista meno 9%. È una flessione che però va presa con le pinze, perché la spesa pensionistica registra invece una flessione apparente e temo che possa condizionare anche la tendibilità dell'intero dato. Ma vorrei dare dei suggerimenti molto modesti al prossimo presidente della Regione Sicilia, visto che vanno a votare. Per esempio, al di là dei forestali, ma com'è possibile che vi siano 17.000 dipendenti che sono esattamente 5 volte quelli della regione Lombardia, che ha il doppio degli abitanti? Di questi 17.000, 4.900 sono ex precari, assunti senza concorso o con contratto a tempo indeterminato. Ci sono poi 717 impiegati presso altre strutture ma pagati dalla regione, 2.300 dipendenti con contratto a termine, 7.300 dipendenti delle società partecipate, e appunto fanno, che si sommano, per cui complessivamente sono 28.796 dipendenti, a cui si sommano 24.880 tra forestali e lavoratori socialmente utili, il che significa, a casa mia, che la regione nel suo complesso dà da lavorare a 56.000 persone. Poi vi chiedete il perché di certe scelte. 56.000 persone sono 56.000 famiglie. Allora, però partiamo dall'alto, perché i dirigenti, tutti a tempo indeterminato e determinato, più i direttori generali, sono in tutte le 15 regioni italiane a statuto ordinario 1.900, okay? Quanti sono nella sola Sicilia? 1.700, cioè nelle 15 regioni italiane amministrate, alcune anche bene, sono 1.900, in Sicilia 1.700. Scrive la Corte dei Conti: gli impegni assunti dalla Regione per i redditi di lavoro dipendente e quant'altro hanno portato anche, tra l'altro, all'eliminazione dei precari, e quindi questo, l'assunzione dei precari a tempo indeterminato. Tra l'altro, la legge del 31 dicembre, ma tu ti rendi conto, ma come si fa a fare una delibera così importante il 31 dicembre del 2016? A meno che tu non voglia farla passare inosservata, la legge numero 27 ha stabilizzato i precari dell'isola, che sarebbero oltre 20.000, nessuno sa il numero preciso ancora, ok? Rimaneva solo l'impugnazione della legge da parte del governo, ma insomma sono scaduti i termini il 23 febbraio e il governo non la può più impugnare. Perché lo diciamo nel dare questo bellissimo applauso alla regione Sicilia? Perché quello che è emerso in maniera chiara è che in questo momento, invece che occuparsi dei reali problemi siciliani, ci si è occupati della stabilizzazione dei precari per motivi anche e soprattutto elettorali. Faccio un esempio su tutti: la sanità siciliana, a fronte delle 7.500 assunzioni, dei 2.000 nuovi posti letto, dei 190 milioni risparmiati nel 2016, secondo l'indice di performance elaborato dalla Demoscopea, è la sanità più malata d'Italia, a eccezione della Calabria. Nonostante la Sicilia abbia speso 1.700 euro all'anno formalmente per ogni residente come costo, le famiglie che sono scese al di sotto della soglia di povertà a causa delle spese non rimborsate, farmaci, case di cura, visite specialistiche, cure odontoiatriche, lo scorso anno sono state 69.000, solo peggio, peggio della Sicilia, solo la Calabria. Allora è chiaro che la priorità era stabilizzare i precari, mantenere l'organico della regione, non occuparsi dei residenti siciliani. L'applauso va non alla regione Sicilia, ma va come augurio al prossimo governatore, nella speranza che sia diverso dall'andazzo fin qui visto. È una speranza, per carità. Petra Keller, fondatrice della startup Mi, scritto maiuscolo, Piaci, buonasera. Sì, buonasera. Allora, dal nome o lei è altotesina o è tedesca proprio, austriaca, quale delle due? No, tedesca. Tedesca. E da quanti anni abita a Milano, che cos'è Mi Piaci, chi vi ha aiutato a fondarla e quanti siete? Allora, io sono in Italia, a Milano, da più o meno 18 anni, mm-hmm. 18-20 anni, e la Mi Piaci Natura l'abbiamo creata come Mi Piaci Milano nel ottobre del 2014. Mm-hmm. Poi adesso in primavera è diventata Mi Piaci Natura, concentrandoci sui prodotti biologici naturali, ecco, e fair trade anche, sì. Quindi di commercio ecosolidale. Ma da dove arrivano questi prodotti biologici? Sì, allora abbiamo una gamma di prodotti che arrivano direttamente dal nord Europa, anche di materia prima, delle patatine, poi una gamma di simpatici prodotti per bambini che comprendono biscotti. Più che simpatici, speriamo buoni, eh. Sì, no, buoni, sì, simpatici biologici. Simpatici bambini, buoni prodotti. Sì, infatti, no, perché anche io ho un figlio di 4 anni, ho 3 figli, bravo. Quindi il piccolino ha 4 anni. E gli piacciono molto anche a lui, insomma, ai suoi amici, trovati. E non solo, però, anche delle puree di frutta, i pretzels, Alfaro, tutto, e in parte anche Demeter, quindi biodinamica, non solo biologica. Ecco, senta, ma l'obiettivo è fare da importatori di prodotti biologici del nord Europa Sì, ecco, questi sono i prodotti dal nord Europa, anche una linea di prodotti, ecco, crudi, vegani, sempre biologici, però abbiamo anche il tè e il cioccolato, che si sa le materie prime provenendo da lontano, diciamo, da paesi terzi, come per esempio il tè dell'Assam, dell'India, del Madagascar. No, ma mi chiedevo, avete intenzione di commercializzare anche prodotti biologici italiani o vi volete specializzare? Sì, allora questo sì sarebbe un po' l'obiettivo, il secondo passo, di commercializzare con il nostro nome Mi Piaci Natura, siamo qua a Milano, prodotti italiani. E in secondo step, quando siamo pronti, insomma, esportarli anche nel nord Europa, cioè in Germania e nel nord Europa. Senta, anche favorendo così all'Italia, no? L'Italia, certo. Perché il cibo italiano si sa, ecco. Senta, Keller, quanti siete, cioè chi vi ha dato i soldi e quanti siete adesso a lavorare e che obiettivo di fatturato avete? Sì, noi siamo, guardi, tra collaboratori impiegati siamo in 7 persone. Che ci aiutano, i fondi, diciamo, ci siamo autofinanziati dai risparmi e dalla famiglia, abbiamo avuto anche un fido in banca, collaboriamo con questa banca, insomma, appunto adesso dobbiamo crescere anche. E l'obiettivo di fatturato qual è? Ma l'obiettivo, certo, l'obiettivo è distribuire questi prodotti e comunque arrivare magari ai 400-500 mila euro. Mila di euro, sì, sì, anche perché le spese c'erano, insomma, no? Ma 400-500 mila euro già dall'anno prossimo? Ma magari ce l'auguriamo, guardi, sempre pensando anche, trattandosi di prodotti... ripeto, come il tè, il cacao, il cioccolato, voglio sottolineare che le aziende sono prodotti biologici, ma le aziende sono molto impegnate nel fair trade e nel fair cacao, impegnati. Sì, che sarebbe il commercio ecosolidale, cioè come viene anche utilizzata la manodopera. Sì, il tè che trattiamo quando lo viene consumato, anche la coscienza pulita si beve il buon tè, non però per sì, l'azienda è molto impegnata nel ricavare dei pozzi con acqua portabile, per esempio in Madagascar, in Assam, in India. Quindi unite anche allo scambio commerciale un'attività sul territorio. Mi dico una cosa, perché poi la devo salutare, però la domanda, cioè, lei è tedesca, ha detto che è quasi, sì, da 20 anni che è in Italia, ma sì, come si trova a Milano? Nel senso che uno può immaginare che, siccome tutto è relativo, dalla Germania a Milano, veda più di un'efficienza. Come si sta in un paese mediterraneo, sì, diverso, della, guardi, della Oil, allora, Belt? Sì, è diverso, sì, allora, per quello devo dire, certo, la Germania delle volte mi manca, anche perché provengo da una zona molto verde, appunto, mi piace la natura perché è naturale, amo anche la natura, però mi sa che non potrei farne più senza Milano, insomma, mi sono proprio affezionata, sono abituata a vivere qua, penso che Milano diventa un po' come, insomma, una volta che ci stai, no, che vivi, la famiglia, amici, è difficile andare via, no, anche se... E quando si può, un po' si scappano. Ma si lavora un po' meno a Milano che in Germania? Sì, diciamo generalmente sì, sicuramente magari è più facile anche per le start-up. In Germania. Parlando adesso della Germania, sicuramente non solo per il lavoro, per le start-up, ma generalmente magari trovare lavoro, anche insomma le condizioni di guadagno, queste cose, insomma. E anche io adesso ho 3 figli. Parlando anche, non so se mi sente qualcuno da noi, è molto sviluppato anche l'apprendistato, per esempio, sì. La formazione, è questo, sì, molto importante, che da sviluppare in Italia di più, perché qua secondo me il carico hanno le aziende interne, la formazione interna, invece da noi per ogni lavoro, dal parrucchiere all'assistente di studio legale, all'assistente della banca, panettiere anche, e c'è questo apprendistato che dura 2-3 anni, dopo di quello si può anche diplomarsi ancora, ma c'è anche fatto un'esperienza lavorativa. Beh, è un modello che molte volte abbiamo citato, di vera alternanza scuola-lavoro, visto che in Italia abbiamo avuto polemiche anche su questo. Grazie a Petra Keller, grazie anche per la fiducia che dà l'Italia, perché magari uno poteva dire torno in Germania. In bocca al lupo a lei, alle 8 tra collaboratori dipendenti che stanno lavorando. È un settore in rapida crescita, non i vegani, ma il cibo vegano. Poi c'è un altro programma che mi segue che si occupa dei vegani, ma in un altro modo. Grazie Petra Keller, traffico e poi l'uccellaccio. Focus Economia. Secondo lei la fine prevarrà? Il partito di maggioranza, quindi del governo, il PD, Renzi, o prevarrà Mario Draghi? Su cosa? Sul governatore. Ah, guardi, no, non faccio parte di questi giri. Per cui... Si rivolga agli illuminati. E chi sarebbero gli illuminati? Ah, lo sapete voi. Ci eravamo lasciati così con l'ex ministro Giulio Tremonti. Io non ho ancora capito chi siano gli illuminati. Venerdì scorso, in piena bagarre sulla nomina del governatore, appunto, che sarà Ignazio Visco. Oggi nel Consiglio dei Ministri assenti i ministri renziani, da Boschi, per malato, Boschi e Del Rio, Lotti e Martina assenti per impegni pregressi. Professor Giulio Sapelli, docente di storia dell'economia dell'Università di Milano, buonasera. Buonasera, dottor Barisoni. La sento un po' bassa, la vedo da quassù, la vedo, ecco. La vedo. Allora, al di là degli illuminati di Giulio Tremonti, che non ho ancora capito cosa volesse dire, mettiamola così. Non hai capito, no, non ho capito, non ho capito. L'esoterismo. L'occhio solo, vabbè. Un commento, io adesso sto... La piramide, vabbè, compasso, ho capito. Fermiamoci qua. Un commento suo, io sto zitto a 3 minuti, come si faceva una volta nei TED Talks, per dimmi, dammi la sua interpretazione autentica di quello che è successo in Banca d'Italia, o meglio, lo scontro PD Banca d'Italia, le sue conclusioni e cosa questo potrà voler dire per il futuro, visto che c'è una campagna elettorale che sta per iniziare e temo che i crack bancari verranno usati come clava da una parte all'altra. Prego, Sapelli. Beh, dunque, come fare una lezione... Beh, molto brevemente, la prova che lo Stato si sta devertebrando, non ci sono più regole, non sono solo le leggi ma le consuetudini. Diciamo subito che un tempo c'era la consuetudine che funzionava benissimo, che i governatori erano a vita, non erano a tempo, E questo le cose hanno funzionato molto bene. Abbiamo sempre avuto non tanto l'indipendenza della banca centrale, che poi c'è naturalmente una moral suasion da parte del governo, ma la tecnostruttura ha potuto cimentarsi, ha sempre potuto cimentarsi nella storia d'Italia in piena libertà, diciamo è la libertà manageriale, diremmo, in un'impresa. Invece cos'è successo con questa mozione parlamentare? Anzitutto è successo qualcosa di incredibile, anche proprio, e questo credo che abbia interessato Mattarella, che non dimentichiamo è ordinario di diritto parlamentare. Mentre c'è in Parlamento una commissione parlamentare d'inchiesta a cui è stato attribuito un ruolo di magistratura, quindi può anche ordinare degli arresti, nel contesto di questa permanenza di questa commissione si fa una mozione parlamentare che non si dovrebbe, secondo i regolamenti, che impetra e prodromica alla decisione, come si dice chiaramente, di mutare il vertice di Banca Italia. Quindi la Presidente della Camera in primo luogo non doveva accettarla questa mozione, e anche l'onorevole, la senatrice Finocchiaro, che ha tanta esperienza, doveva, che si è limitata solo a modificarla, dovevano respingerla. E questo non è avvenuto, quindi vuol dire che anche le regole parlamentari sono state infrante. D'altra parte basta vedere cosa è successo con questo eccesso di fiducia sulla questione del voto. Naturalmente tutti mi dicono: ah, ma Banca Italia non ha funzionato. Dunque, innanzitutto non si può dire due cose e dimenticarle. La vigilanza non è solo più della Banca Centrale, e questo cose che io ho sempre criticato. La vigilanza è assunta dalla BCE fondamentalmente, che la BCE, questo secondo me è sempre stata una follia, come fossimo nel Gosplan sovietico. La BCE deve vigilare sulla buona governance di delle migliaia di banche europee, che a loro volta trasmette delle regole di comportamento, e che queste la banche nazionali, banche centrali, che sono state ormai private di risorse, di personali, dovrebbe fare l'opera di vigilanza. Mi dice la seconda cosa, che poi la riprendo volentieri il lunedì, il secondo aspetto in una battuta, perché ho finito il tempo. Il secondo aspetto è che questo evento è un evento di inaudita violenza, e non si è mai verificato che un partito in questo modo a gamba tesa entrasse nella nomina di un'autonomia funzionale di un'autorità come quella della Banca d'Italia. Lunedì la riavremo, perché da qui vorrei ripartire, adesso che il governatore c'è, per capire in realtà che cosa sta capitando a un corpo che lei studia molto, le cosiddette elite nelle democrazie. Mi interessava un suo primo, diciamo, titolo su questo. Grazie anche a Giulio Sapelli, che riavremo ospite lunedì, perché il ragionamento sulle elite è ben più complesso. Grazie come sempre anche a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza in studio e in redazione. Da Sebastiano Barisoni le auguro una buona serata e un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Radio 24, libera la voglia di fare.